Se sono in collera o mi irrito, erigo attorno a me un bastione nel mondo animico e le forze che devono sviluppare i miei occhi dell'anima non mi si possono avvicinare. Se qualcuno, ad esempio, mi irrita, egli manda una corrente animica nel mondo animico. Non la potrò vedere fino a che sarò in grado di adirarmi. La mia collera me la nasconde. Non devo però credere che non arrabbiandomi più io riesca subito a percepire un fenomeno animico, astrale, perché allo scopo occorre che in me si sia prima sviluppato l'occhio animico. La relativa disposizione è latente in ognuno, ma rimane inattiva finché si ha la capacità di irritarsi, né diventa subito attiva se la si è combattuta un poco. Si deve piuttosto proseguire nella lotta contro la collera e continuarla con pazienza. Un giorno si osserverà che l'occhio animico si è sviluppato. Certo, non è solo contro la collera che occorre lottare per raggiungere questo fine. Molti diventano impazienti e dubbiosi perché hanno combattuto per molti anni alcune disposizioni dell'anima senza che la chiaroveggenza sia stata raggiunta. Hanno magari perfezionato alcune qualità, lasciandone però soffocare altre. Il dono della chiaroveggenza si presenta soltanto quando sono state dominate tutte le qualità che non permettono alle capacità latenti di svilupparsi. Magari qualche inizio di tale vista o udito si palesa anche prima, ma sono tenere pianticelle, con facilità soggette ad ogni genere di errore, che muoiono ben presto, se non sono ulteriormente coltivate con cura. Fra le qualità che bisogna combattere, altrettanto quanto la collera e l'irritazione, sono la paura, la superstizione e il pregiudizio, la vanità e l'ambizione, la curiosità e le chiacchiere inutili, la tendenza a stabilire distinzioni fra gli uomini in ordine alla loro posizione esteriore, alla loro razza, alla loro discendenza e così via. Ai nostri tempi riuscirà difficile comprendere come la lotta contro tali qualità abbia a che fare con l'intensificazione della capacità cognitiva. Ogni occultista sa però che tali cose esercitano un'influenza molto più grande che non l'aumento dell'intelligenza e la pratica di esercizi artificiali. Un malinteso può assai facilmente nascere, ove si ritenga che per essere coraggiosi occorra diventare temerari, o che per lottare contro i pregiudizi di casta, di razza e così via, si debbano ignorare le differenze che vi sono fra gli uomini. Si impara piuttosto a giudicare giustamente solo quando non si è più vincolati da pregiudizi. Anche dal punto di vista comune, è vero che la paura impedisce di giudicare con chiarezza un fenomeno e che un pregiudizio di razza impedisce di penetrare con lo sguardo nell'anima altrui. Il discepolo dell'occultismo deve sviluppare in sé questo senso, affinandolo con grande delicatezza e intensità. Altra pietra d'inciampo sulla via dell'educazione occulta è tutto ciò che si dice senza avere prima riflettuto a fondo e con chiarezza sui propri pensieri. A questo proposito va tenuto anche conto di qualcosa che si può spiegare bene soltanto con un esempio. Se taluno mi dice qualcosa a cui devo rispondere, devo preoccuparmi di tener maggior conto dell'opinione, del sentimento e anche dei pregiudizi del mio interlocutore, che non di ciò che avrei da dire in quel momento sull'argomento in discussione. Si tratta qui di una finissima educazione del tatto a cui il discepolo deve dedicarsi con cura. Deve poter giudicare dell'importanza che l'impressione della sua opinione, contraria a quella del suo interlocutore, potrà avere su quest'ultimo. Non deve per questo trattenersi dall'esporre la propria opinione, non è questo il punto, ma ascoltare l'interlocutore con la massima attenzione per foggiare la forma della propria risposta. In questi casi vi è un pensiero che torna sempre ad affacciarsi alla mente del discepolo dell'occultismo ed è giusto che esso viva in lui, tanto da diventare parte del suo carattere. Il pensiero è questo: non ha importanza che la mia opinione sia diversa da quella del mio interlocutore, ma che col mio contributo egli riesca a trovare da sé l'interpretazione giusta. Con pensieri di questo genere si imprime nel carattere e nel modo di agire del discepolo la virtù della mitezza, che è un mezzo essenziale per ogni disciplina occulta. La durezza scaccia da te le figure animiche che devono destare il tuo occhio animico. La mitezza elimina gli ostacoli e apre i tuoi organi. Con la mitezza si andrà ben presto formando un'altra tendenza nell'anima. L'osservazione di tutte le sfumature della vita animica dell'ambiente circostante, nel completo silenzio delle emozioni nella propria anima. Quando il discepolo è arrivato a tanto, le emozioni animiche dell'ambiente circostante agiscono su di lui in modo che la sua anima cresce e si organizza come la pianta si sviluppa alla luce del sole. Mitezza e silenzio, in una vera pazienza, aprono l'anima al mondo delle anime e lo spirito al mondo degli spiriti. Aspetta nella calma e nel raccoglimento, chiudi i sensi a ciò che essi ti hanno trasmesso prima della tua educazione occulta, imponi silenzio a tutti i pensieri che per la tua precedente abitudine si agitavano in te, diventa calmo e silenzioso nella tua interiorità e aspetta con pazienza. Allora i mondi superiori cominciano a formare i tuoi occhi animici e i tuoi orecchi spirituali. Non devi attenderti di vedere ed udire subito nel mondo animico e in quello spirituale, perché quel che fai contribuisce soltanto a formare i tuoi sensi superiori. Potrai però vedere animicamente, udire spiritualmente, soltanto quando avrai quei sensi. Dopo aver aspettato per qualche tempo, nella calma e nel raccoglimento, ritorna alle consuete occupazioni quotidiane, imprimendo prima profondamente in te questo pensiero: quando sarò maturo, mi sarà dato ciò che mi deve venir dato. Evita con forza di attirare a causa del tuo arbitrio le potenze superiori. Queste sono istruzioni che ogni discepolo dell'occultismo riceve dal suo maestro all'inizio della vita. Osservandole, egli si perfeziona. Non osservandole, ogni suo lavoro riesce inutile. Sono però difficili soltanto per chi non ha pazienza e perseveranza. Non vi sono altri ostacoli, se non quelli che ognuno pone a se stesso sulla via. Ognuno può evitarli, purché davvero lo voglia. È necessario sempre sottolinearlo, perché molti si formano un'idea del tutto sbagliata delle difficoltà della vita occulta. In un certo senso è più facile percorrere i primi gradini di questa via che non superare, senza educazione occulta, le difficoltà quotidiane della vita. Comunque, qui vengono comunicate solo le pratiche che non recano alcun genere di pericolo per la salute del corpo o dell'anima. Vi sono anche altre vie che conducono più rapidamente alla meta. Nulla hanno però in comune con ciò che qui è inteso, perché su chi le segue possono avere effetti che un occultista esperto non può desiderare. Siccome alcune di queste vie spesso diventano di dominio pubblico, è necessario ammonire espressamente che non conviene seguirle. Per ragioni che soltanto l'iniziato può comprendere, quelle vie non possono mai essere comunicate al pubblico nella loro vera forma. Le poche notizie frammentarie che qua e là appaiono non possono condurre ad alcun profitto, ma piuttosto a minare la salute, la felicità e la serenità dell'anima. Chi non vuole affidarsi a potenze molto tenebrose, delle quali non può conoscere né la vera natura né l'origine, eviti di occuparsi di quelle cose. Si può dire ancora qualcosa dell'ambiente in cui conviene eseguire gli esercizi della disciplina occulta, perché ha la sua importanza, sebbene la cosa sia diversa quasi per ognuno. Chi si esercita in un ambiente pieno di interessi egoistici, quale ad esempio la lotta moderna per l'esistenza, deve rendersi conto che quegli interessi non sono senza influenza sullo sviluppo dei suoi organi animici. Certo, Le leggi interiori di tali organi sono tanto forti che quell'influenza non può riuscire troppo nociva. Come un giglio, per quanto inadatto possa essere l'ambiente in cui si trova, non potrà mai diventare un cardo. Così l'occhio animico non potrà svilupparsi se non a ciò cui è destinato, per quanto deleteria possa essere l'influenza degli interessi egoistici esercitati dalle città moderne. In ogni caso, è bene che il discepolo dell'occultismo ricorra di tempo in tempo all'ambiente della silenziosa calma, della dignità interiore e della vaghezza della natura. Sono specialmente favorevoli le condizioni di chi può svolgere la sua educazione occulta in mezzo al verdeggiante mondo vegetale o tra mondi soleggiati in mezzo al ritmo semplice della natura. Ciò porta gli organi interiori ad un'armonia che non raggiungono mai nella città moderna. È già in una posizione migliore del cittadino chi, almeno nell'infanzia, ha respirato l'aria degli abeti, ha visto le cime nevose delle montagne e ha potuto osservare le silenziose attività degli animali e degli insetti. Però nessuno di coloro che sono obbligati a vivere in città deve trascurare di fornire ai suoi organi animici e spirituali, in corso di formazione, il cibo degli insegnamenti ispirati dell'indagine occulta. Chi ad ogni primavera non può seguire giorno per giorno con gli occhi lo spuntare del verde fogliame nei boschi, dovrebbe come compenso accogliere nel suo cuore i sublimi insegnamenti della Bhagavad Gita, del Vangelo di Giovanni, di Tommaso, della descrizione dei risultati della scienza dello spirito. Vi sono molte vie per arrivare all'apice della conoscenza, ma una giusta scelta è indispensabile. L'occultista conosce di queste vie molte cose che potrebbero sembrare strane al non iniziato. Può succedere, per esempio, che qualcuno sia molto progredito sulla via occulta. Può trovarsi, per così dire, proprio alla vigilia dello schiudersi degli occhi animici e delle orecchie spirituali. Può allora aver la fortuna di fare un viaggio sul mare calmo o forse anche tempestoso e la benda gli cade dagli occhi. Ad un tratto diventa veggente. Un altro è ugualmente progredito, occorre soltanto che la benda si sciolga. Ciò avviene a seguito di un forte colpo del destino. A un altro quel colpo avrebbe potuto paralizzare la forza, minare l'energia. Per il discepolo dell'occultismo determina invece l'illuminazione. Un terzo aspetta per lunghi anni con pazienza, senza raccogliere alcun risultato evidente. Ad un tratto, mentre siede tranquillo nella sua camera silenziosa, attorno a lui si fa luce spirituale. Le pareti spariscono, diventano animicamente trasparenti e un nuovo mondo si stende dinanzi al suo occhio, divenuto veggente, o risuona al suo dischiuso orecchio spirituale.